Davanti a Radio 24 parlai con l'ambasciatore Fogli, era indignato. Fini Casini e Rutelli verso una mozione unitaria per la sfiducia al governo e anche la riforma dell'università al Senato slitta dopo il 14 dicembre. Chiedo scusa, così Spatuzza in aula per l'omicidio del piccolo di Matteo sciolto nell'acido. Pompei nessun crollo, ma oggi il vertice per una fondazione che apre il sito ai privati. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. La Svezia ha confermato questa mattina il mandato d'arresto per Julian Assange, ma intanto le rivelazioni di Wikileaks in Italia hanno scatenato un'altra bufera. L'alta corte svedese comunica di avere respinto la richiesta di appello presentata da Julian Assange contro il mandato di arresto per accuse di stupro. Il fondatore di Wikileaks è quindi sempre un ricercato dall'Interpol e sul suo nascondiglio segreto il quotidiano inglese Independent aveva rivelato, citando fonti della polizia britannica, che si troverebbe in Gran Bretagna. Un'ipotesi confermata dal suo legale britannico Mark Stephens, che ad affariitaliani.it ha confermato che polizia e inquirenti hanno avuto contatti con lui e i servizi di sicurezza di numerosi paesi sanno esattamente dove si trova. Il legale ha annunciato che diversi stati si sono offerti per dare l'asilo politico ad Assange, ma lui non ha intenzione di muoversi. E sull'ipotesi del ministro Frattini, secondo cui dietro ad Assange ci sarebbe qualcuno, Stephens ha precisato: Wikileaks è un gruppo di diverse migliaia di persone che formano una comunità virtuale diffusa in tutto il mondo. Cristina Balotelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un intreccio che è politico e di affari, quello che lega l'Italia e la Russia, di cui parla Wikileaks. Un rapporto che passa soprattutto dalle vie del gas. Per ironia della sorte, le rivelazioni di Wikileaks sul rapporto esclusivo tra Berlusconi e Putin visto dall'America colgono i diretti interessati ancora una volta insieme, a Sochi. Al vertice intergovernativo di domani saranno presenti anche il ministro Frattini e tanti imprenditori, tra cui Eni, chiamata in causa da Ronald Spogli, ambasciatore americano a Roma nel 2009. Riferendo all'opinione di membri dell'opposizione ma anche del PDL e citando una fonte diplomatica italiana a Mosca, Spogli definisce l'energia l'asse portante del rapporto Putin-Berlusconi, lo scenario in cui i due leader perseguirebbero i rispettivi interessi grazie a un legame che scavalca ambasciata e Ministero degli Esteri, ponendoli davanti ai fatti compiuti. Nessuno, avrebbe ammesso Frattini, può influenzare Berlusconi quando si parla di politica russa. Ci guadagna soprattutto l'ENI, per cui Berlusconi sarebbe intervenuto personalmente presso Putin, per esempio per strappare a Gazprom un prezzo più vantaggioso in occasione della vendita al monopolio russo del 20% di Gazprom Neft detenuto da ENI. Per compiacere Putin, Berlusconi avrebbe assunto posizioni controverse sul fronte politico, appoggiando la Russia nel 2008 durante l'invasione della Georgia. Tanto che il governo georgiano è convinto, scrive Spogli, che per ringraziare Putin abbia promesso a Berlusconi una percentuale su ogni gasdotto sviluppato con Gazprom, in coordinamento con Eni. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore, Sochi. Assange, criminale o paladino della verità? Vi abbiamo chiesto anche noi questa mattina nel nostro sondaggio. Criminale, ha risposto il 38% degli ascoltatori di Radio 24, paladino della verità il 62%. E noi abbiamo intervistato Paolo Guzzanti, deputato del Partito Liberale ed ex PDL, che lasciò il partito del Premier anche per il dissenso sulla politica nei confronti della Russia. Sentiamolo al microfono di Simone Spezia. Io ho avuto dei colloqui diretti con Spogli, in cui Spogli mi ha detto quello che sta nel cablogramma, ma con toni molto, molto amareggiati, molto forti, insomma. Era sconfortato, amareggiato, indignato. Diceva che questo era l'unico elemento che abbia turbato e tuttora turbasse i rapporti, peraltro su ogni altro fronte, eccellenti tra Italia e Stati Uniti. La questione americana, espressa in termini molto aspri relativamente ad una questione che passa per l'energia ma che invece è strategica. L'Italia diventa politicamente e strategicamente dipendente dalla Russia, cioè nel senso che Putin chiude il rubinetto come ha fatto con l'Ucraina, può chiuderlo e quindi da quel momento tu hai una dipendenza di fatto. E quelli che sono poi più furiosi sono gli inglesi, molto più degli americani. I termini con cui si esprimeva l'ambasciatore americano erano molto aspri e erano aspri anche a nome di Bush, perché poi qui c'è una leggenda metropolitana da sfatare, cioè che Berlusconi fosse il cocco di Bush, ma lo stesso Bush non ne poteva più. Così l'intervista a Radio 24 di Paolo Guzzanti. Berlusconi è ancora all'estero, è ancora in Kazakistan e in sua assenza intanto però le rivelazioni di Wikileaks sono naturalmente rimbalzate a Roma in Parlamento. Allora andiamo alla Camera, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è così. Il centro-sinistra è tornato a chiedere questa mattina in aula che il Presidente del Consiglio Berlusconi riferisca su quanto rivelato da Wikileaks. In particolare la richiesta del PD e del capogruppo Franceschini è che il Premier chiarisca sui suoi rapporti con la Russia riportati oggi dalla stampa. Ma ascoltiamo Franceschini. In una seconda frase l'ambasciatore americano scrive queste parole: l'ambasciatore della Georgia a Roma ci ha detto che il governo georgiano ritiene che Putin ha promesso a Berlusconi una percentuale di profitto da ogni gasdotto sviluppato dall'ENI insieme a Gazprom. Allora, poiché noi speriamo che queste parole non siano vere e lo speriamo per il nostro paese, chiediamo che il Presidente del Consiglio venga in aula a smentire, se è in condizione di farlo, a smentire queste frasi. E non si è fatta attendere la replica da parte della maggioranza. Capezzone parla di un Franceschini disperato. Il capogruppo del PDL Cicchitto accusa la sinistra di autolesionismo nazionale. Sentiamo. I colleghi del Partito Democratico seguono con attenzione ogni dispaccio dell'ambasciata americana. Dovrebbero fare i conti innanzitutto con il loro passato, che era un passato nel quale il punto di riferimento era proprio l'Unione Sovietica, e in secondo luogo vedo che non fanno i conti con quello che ha detto ieri il segretario di Stato americano. Questo è il dibattito dunque questa mattina alla Camera, dove non si lavora invece su progetti di legge concreti, tutto congelato fino al 14 dicembre per il voto di fiducia. E alla Camera però, Vincenzo, c'è stato un inedito vertice. Sì, è così, un inedito vertice a tre che potrebbe divenire consuetudine nell'immediato futuro. Si sono visti questa mattina qui alla Camera Casini, Fini e Rutelli. Vi sarebbe un via libera verso una comune mozione di sfiducia in vista del 14 dicembre. Rutelli ha parlato di convergenza ampia e solida. Dal governo arriva intanto un duro attacco del ministro Rotondi a Fini, parlando proprio a Radio 24. Rotondi ha detto: il presidente della Camera ha gettato il paese nella tragedia. Anna. Ecco, questo alla Camera, Vincenzo. Al Senato, anche qui, voti decisivi slittano però in attesa della fiducia. In particolare ce n'è uno. Sì, è così, la Camera è ferma sino al voto di fiducia, situazione quasi simile al Senato. Prima del 14 dicembre si approverà solo la finanziaria, ma non la riforma dell'università. La conferenza dei capigruppo ha deciso infatti di farla slittare dopo la verifica. E da Roma è tutto. E grazie a Vincenzo Miglietta. Noi voltiamo pagina, andiamo in Sicilia, dove dal pentito che uccise nell'acido il piccolo Di Matteo sono arrivate le scuse. Si dice pentito e chiede perdono. Gaspare Spatuzza ha testimoniato in videoconferenza a Palermo al processo sul rapimento e l'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino, e ha chiesto perdono alla società civile. Non è solo una questione tra noi e la famiglia Di Matteo, ma fra noi e la società civile oltraggiata e violentata da noi, e qui io chiedo perdono. Spatuzza ha ricostruito le modalità del rapimento del piccolo Di Matteo, di come lo legarono e lo lasciarono ad altri. Spatuzza, che con le sue rivelazioni ha contribuito a riaprire il processo, è imputato insieme al boss Giuseppe Graviano, al boss latitante Matteo Messina Denaro e ad altri tre mafiosi delle famiglie di Roccella e Corso da Mille, e ha raccontato che Graviano fornì loro il materiale per travestirsi da poliziotti e che su una Croma e una Fiat Uno rubate con le casacche delle forze dell'ordine si presentarono al maneggio di Altofonte dove la vittima si trovava. Al piccolo Di Matteo, quel 23 novembre 1993, raccontarono che lo avrebbero portato dal padre, mentre il bimbo ripeteva papà, papà, amore mio. Il piccolo invece venne ucciso e sciolto nell'acido dopo 779 giorni di prigionia, per far pagare al padre l'aver contribuito con le sue rivelazioni alla condanna degli stragisti di Capaci. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Il maltempo sta creando gravi disagi in Europa, la situazione più grave in Albania, la città di Scutari è circondata ormai dall'acqua che ha invaso anche alcuni quartieri e vista dall'alto sembra trasformatasi in un'isola. Interi villaggi sono allagati, il governo è stato costretto a dichiarare lo stato di calamità naturale. Albania sotto la pioggia, Francia sotto la neve, a Parigi nevica da ieri pomeriggio ininterrottamente, in Bretagna e nel Calvados migliaia di auto sono rimaste bloccate tutta la notte al gelo. Gravi i disagi anche anche in Germania, soprattutto al traffico aereo, ferroviario e automobilistico. I berlinesi si sono svegliati questa mattina con 10 centimetri di neve. Va un po' meglio in Italia, oggi non piove sull'Aquila e sull'Abruzzo, disagi contenuti per la piena del Tevere, registrata proprio questa mattina, come ci spiega Giorgio Cesari dell'autorità di bacino del Tevere. Se parliamo del Tevere a Roma, e ricordiamoci che il Tevere non transita però solo per Roma, è stato sostanzialmente raggiunto un livello simile a quello del 2008. 2008 fu funestato l'evento dalla presenza di tronchi, barconi, ormeggi saltati, eccetera. Oggi abbiamo una visione di un Tevere gonfio, ma che non ha dato preoccupazione nella città di Roma. Quindi la piena c'è stata, ma non ha avuto conseguenze? Ma la piena non ha dato conseguenze perché è un evento, come abbiamo sempre detto, che si è mantenuto entro i cosiddetti ordinari, quindi piene che devono esserci perché un fiume chiaramente ha la sua vita estiva, diciamo più secca, e la vita più bagnata durante il periodo invernale. Assolutamente. Citava il caso del 2008 e parlava sì. Di tronchi, di materiale di scarico che avevano comunque peggiorato la situazione. Quest'anno non è accaduto, vuol dire che è stato pulito meglio il fiume, è stato tenuto meglio? Non dimentichiamoci la importantissima azione svolta dalla Protezione Civile, svolta dalla Regione, che hanno portato non soltanto, come fu apprezzato anche dalla cittadinanza, a una pulizia del greto del Tevere, dei muraglioni, delle buste di plastica, eccetera, ma anche un'attenzione ad altre situazioni, quale può essere appunto il tronco, quale può essere il materiale comunque flottante, come può essere attenzione soprattutto all'ormeggio. Insomma, la prevenzione in questo caso ha funzionato, quell'esperienza è servita a qualcosa? Assolutamente sì, e deve continuare a funzionare. Gli ospedali italiani sprecano oltre 9 miliardi di euro l'anno. La stima è dell'AIOP, l'associazione ospedaliera privata, il presidente Enzo Paolini. È una situazione variegata da regione a regione, da un margine di inefficienza che io definisco fisiologico, che nelle regioni più virtuose come la Lombardia al 17%, ad un margine di inefficienza, quindi uno spreco secondo me totalmente inaccettabile nelle regioni meno virtuose come la Calabria, dove arriva quasi al 50%, quindi la metà dei soldi sono sprecati o comunque destinati a costi impropri, nel senso che una serie di prestazioni sono non rese e la parte del finanziamento è derivante dal personale in surplus, macchinari obsoleti, insomma una serie di costi che magari attengono a risposte sociali, livelli occupazionali, ma che esulano dalla parte strettamente sanitaria. Se si dovesse scegliere una politica di mantenere questi costi, bisognerebbe toglierli dal fondo sanitario. Le 13:17 minuti, le notizie di oggi di GR24 da Wikileaks, sospetti nei rapporti Mosca-Roma, Guzzanti a Radio 24, parlai con l'ambasciatore Spogli, era indignato. Fini Casini e Rutelli verso una mozione unitaria per la sfiducia al governo e anche la riforma dell'università al Senato slitta dopo il 14 dicembre. Chiedo scusa, così spatuzza in aula per l'omicidio del piccolo Di Matteo sciolto nell'acido. Sfonda quota 4 milioni il numero di italiani nel mondo, il rapporto della Fondazione Migrantes. E come abbiamo anticipato, noi ripartiamo da Pompei. Oggi nessun crollo segnalato, ma ci sarà invece una riunione importante per decidere il futuro. Devono aver tirato un sospiro di sollievo questa mattina nella sede della soprintendenza degli scavi archeologici di Pompei quando si sono resi conto che, per fortuna, dopo 2 giorni consecutivi in cui si erano verificati crolli all'interno del sito, stamattina i custodi non hanno segnalato ulteriori cedimenti. Perché, a dire della stessa soprintendenza, con la pioggia abbondante degli ultimi giorni e lo stato in cui versano molti edifici degli scavi, i crolli potrebbero non essere finiti qui e per questo è stato avviato un monitoraggio senza precedenti di tutti i casi ritenuti a rischio. La parola d'ordine anche oggi è non creare inutili allarmismi, ma in realtà i 3 crolli verificatisi negli ultimi 30 giorni non fanno stare tranquilli nessuno. Tanto per oggi pomeriggio il ministro dei beni culturali Bondi ha convocato una riunione al MIBAC per la costituzione di una fondazione di diritto privato proprio per la gestione del sito archeologico di Pompei. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E sull'ipotesi di una fondazione Pompei, replica il direttore generale per la valorizzazione dei beni culturali Mario Resca al microfono di Adriana Fracchia. Questo vorrebbe dire in realtà dare una nuova veste giuridica a Pompei, che oggi è gestita direttamente dal Ministero, a un veicolo esterno giuridico che avrà un suo consiglio di amministrazione, avrà oltre al Ministero che promuove questa tipo di iniziativa, portare le istituzioni locali e i privati affinché possano portare nuove competenze per evitare quello che è avvenuto in questi anni, cioè l'incapacità in realtà di pianificare un'accurata manutenzione, un'accurata gestione di un bene protetto patrimonio dell'UNESCO, ma è una grande fonte di cultura, di sviluppo culturale ma anche economico. Pompei fa 2,5 milioni di visitatori, crea oltre 20 milioni di ricavi solo in biglietteria, quindi l'idea è, come è venuto per il Museo Egizio, di rendere autonomo in modo che possa attrezzarsi e continuare a crescere, altrimenti vediamo che al di là del fatto fisico dell'erosione continua, che è un sito archeologico esposto al maltempo, al tempo, occorre competenze nuove che gestiscono, e quindi la fondazione tenderà a portare dentro anche fondazioni bancarie, istituzioni private e pubbliche locali che dovranno, questo è l'obiettivo, rendere il sito di Pompei più vivace, più autonomo, con l'obiettivo di sviluppare di più l'accoglienza. Sentivamo, già funziona con una fondazione, ad esempio il Museo Egizio, ma la collaborazione tra pubblico e privato per i beni culturali è un tema dibattuto e non è una novità. In alcuni casi, peraltro, funziona. Un esempio di sostegno privato ad una mostra arriva oggi da Milano, dove grazie alla sponsorizzazione dell'ENI e in partenariato con Louvre, da domani al 6 gennaio verrà esposto nella Sala degli Alessi di Palazzo Marino Donna allo specchio di Tiziano. Si ripete così l'iniziativa di portare ogni anno a dicembre a Milano un capolavoro della storia dell'arte per un'esposizione ad ingresso gratuito. Il quadro fu dipinto da Tiziano tra il 1514 ed il 1515, una delle curatrici, Valeria Merlini, al microfono di Adriana Fracchia. Questa mostra rientra in un programma che ha già visto 2 anni fa arrivare il Caravaggio della collezione Descalzi a Palazzo Marino, l'anno scorso lo straordinario San Giovanni Battista di Leonardo, quest'anno ospitiamo la meravigliosa Donna allo specchio di Tiziano. L'idea di ospitare un'opera unica sulla quale ci si possa concentrare, un capolavoro assoluto, ci permette anche quest'anno, grazie a ENI che produce questo evento e al Comune di Milano che lo ospita, di offrire ai cittadini questa nuova esperienza con una visuale tutta femminile, in quanto questo è un'opera giovanile di Tiziano, straordinariamente importante perché è un ritratto ideale della bellezza femminile, ma rientra in questa serie di dipinti in cui la visione dello specchio, il gioco degli specchi è un qualcosa che va al di là della mera osservazione della propria bellezza. Oltretutto rientra in un dibattito meraviglioso che c'era all'epoca, che era la grande rivalità tra la scultura e la pittura. Ieri la neve, oggi il gelo e la nebbia, proseguono per il 6° giorno in condizioni meteo difficili le ricerche di Yara Gambirasio, la 13enne scomparsa venerdì da Brembate Sopra in provincia di Bergamo. Le ricerche proseguono nei dintorni del paese. Ieri i carabinieri avrebbero messo i sigilli a un piccolo magazzino al pian terra del cantiere al confine con Mapello, dove i soccorritori sono stati guidati dai cani. Assemblea in strada per alcune centinaia di lavoratori delle carrozzerie di Mirafiori, iscritte alla FIOM, con il segretario generale Maurizio Landini e il responsabile auto Giorgio Airaudo. Oggi alle 14, ricordiamo, riprende la trattativa tra Fiat e sindacati sullo stabilimento torinese. Sfonda quota 4 milioni il numero di italiani nel mondo, lo rivela l'ultima edizione del rapporto Italiani nel mondo di Fondazione Migrante. È stato presentato a Roma, Sergio Nava ha intervistato la curatrice Delfina Licata. All'8 aprile 2010 gli italiani residenti all'estero secondo l'AIRE sono oltre 4 milioni. Sono 5 anni del rapporto Italiani nel mondo della migrante, se dal 2006 ad oggi abbiamo riscontrato un aumento di oltre il 30%. Comunque questo non determina delle differenze nelle caratteristiche, nel senso che si tratta comunque sia di una emigrazione euroamericana, un'emigrazione che parte dalle regioni meridionali, un'emigrazione che è sempre più costituita tanto da donne tanto da uomini, è un'emigrazione che comincia a svecchiarsi, al contrario le classi centrali e le classi dei minori aumentano. E potete ascoltare l'intervista integrale nel corso della trasmissione Giovani Talenti in onda il sabato alle 15. Televisori ciechi e muti, orfani di tutti i canali o quasi, difficoltà di ricezione e di sintonizzazione, è facile prevederlo, anche al nord il passaggio al digitale terrestre colpisce. Si ripete anche in Lombardia l'odissea del digitale terrestre. A prendere posizione questa volta il primo cittadino di Milano, Letizia Moratti, che ha definito il passaggio dall'analogico un disastro e ha pensato a una soluzione. Diciamo che non è facile, ecco, questo passaggio. Allora, da ieri mi sono attivata con diversi assessori, con diversi direttori, e abbiamo messo in piedi una squadra di 80 tecnici che andranno gratuitamente nelle case di chi ha bisogno. Gli 80 tecnici sono studenti del centro di formazione professionale Galdus e l'intervento a domicilio sarà gratuito. Per prenotare un intervento i milanesi dovranno contattare il call center comunale 020202 oppure il nuovo numero verde 800 777 888. Ovviamente si partirà da chi è maggiormente in difficoltà. I tecnici costano 70 euro circa. Abbiamo ritenuto che soprattutto ovviamente per gli anziani soli o per le fasce più fragili, questo potesse essere un aiuto concreto ai cittadini. Intanto dall'Emilia migliaia di lamentele, con le sintonizzazioni automatiche il TG regionale Rai diventa talvolta quello di Lombardia o Veneto. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parlavamo poco fa di privati e di beni culturali, ebbene un'agenzia battuta adesso, una conferma: Diego Della Valle è pronto a finanziare il completo restauro del Colosseo, così ha confermato l'imprenditore, che ha aggiunto: ci faremo carico dell'intero costo dell'operazione. E ora l'attesa per i mondiali di calcio del 2018. Oggi ci sarà il voto a Zurigo. Every vote is important to us, but you know, I spent some time with Jack over in Trinidad and Tobago and it was good, but obviously ogni voto può essere decisivo. L'importante ora è vincere la nostra sfida e ottenere l'organizzazione dei mondiali. Voce e pensiero di David Beckham, volto dell'Inghilterra che vuole la Coppa del Mondo 2018. L'esecutivo della FIFA vota oggi a Zurigo. Di più, verrà assegnata per la prima volta anche l'organizzazione dei mondiali 2022. Doppio affare milionario, quindi, malgrado scandali, dossier e accuse che hanno avvelenato questi mesi di vigilia. Due membri dell'esecutivo, il tahitiano Teimari e il nigeriano Amadou, esclusi per corruzione. Altri tre, tra cui il vicepresidente FIFA e capo della Federcalcio brasiliana Teixeira, accusati dalla BBC di aver intascato almeno 100 milioni di dollari di mazzette nel 2001. Ma la macchina messa in piedi dal presidente Blatter non si ferma e allora oggi tutti al voto. Per il 2018 in corsa Inghilterra, Russia e le candidature congiunte di Spagna, Portogallo e Belgio-Olanda. Per il 2022 in campo Giappone, Stati Uniti, Qatar e Australia. Col sospetto, chiunque vinca, che il destino della Coppa del Mondo non si sia deciso solo e soltanto in quell'urna. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In regia Fabio Cantadori. Ci fermiamo qui. GR24 vi aspetta con gli aggiornamenti alle 14. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.